בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Amici di Blu Radio Veneto, buonasera a tutti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto e siete capitati giusto all'interno di quella che è la programmazione serale che si chiama Blu Time. In questo caso, visto che c'è del live, vi faremo sentire della musica a livello acustico per presentazione di bei pezzi, non vi aggiungo altro. Avremo anche il termine live, per l'appunto. Quindi buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Calzavare, che insieme a me conduce questa trasmissione. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, in questa serata di martedì 5 marzo 2013 abbiamo un graditissimo ritorno, perché ospitiamo ancora una volta all'interno dei nostri studi i Free Jam. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora salutiamo Yarin, Davide, Roberto ed Enrico, che insieme formano questa marmellata libera, chiamiamola così. Quindi Free Jam, con un album che è uscito l'anno scorso ed erano già venuti a presentarcelo in anteprima, che si intitola What's About Funky, e cerchiamo anche di capire il perché si intitola What's About Funky, se non spiegando un attimino di che tipo di musica fanno i Free Jam. Allora, voi che musica fate, Free Jam? Allora, buonasera. Buonasera Davide. Buonasera Davide. Tocca a te aprire. Che musica facciamo? Ma sì, sì. Allora, sì. Intanto anticipo che Free Jam, sì, già di per sé esprime, voleva esprimere all'origine, qualcosa. Parliamo di qualcosa come quasi 20 anni fa. Sì, ricordiamo che voi siete nati, diciamo, ufficialmente o quasi nel 1993. Sì, 92 i primi incontri, ma il 93 è quando è nato il nome. E quindi diciamo che quest'anno sono, si festeggia, sono 20 precisi. 20 anni. E il nome, diciamo che l'abbiamo messo apposta perché volevamo rendere un po' l'idea del senso di libertà nella scelta degli stili musicali, anche un po' di sperimentazione, con un po' di commistione di generi, insomma. Però oggi sicuramente i Free Jam sono funky, con funky come base, che poi si accompagna al pop, al rock, al blues. Certo, hanno perso la colorazione rock, visto che il vostro nome deriva da un famoso album di Jeff Beck del 1975. Sì, sì, tu, in questo Maurizio, caso hai studiato. Sì. Sì, mi sono informato. Ricordiamo Freeway. Esatto. Jam, appunto, che era il pezzo di Jeff Beck nel suo periodo grande. Più grande. Anche se conosciamo Jeff Beck non solamente per le effusioni funky, ma anche perché è stato ha picchiato duro. È un rocchettaro di prima. In certe situazioni. E poi si è dato anche un po' al jazz, anche sperimentale, se vogliamo dire, con la sua chitarra. Tra altre cose, e qui facciamo onore a Yarin Munari, che è il batterista della... Chi è? Non lo conosco. È il tuo è il batterista della band, quello che suona con voi, sì. Ecco qua, buonasera Yarin, ci sei? Buonasera a tutti. Ecco qua, volevo ricordare che Jeff Beck in un periodo importante, e forse anche all'inizio della sua carriera, ha suonato assieme a Cozy Powell a quel tempo, no? Quindi era il lontano 1971, e Cozy Powell, tu puoi confermare, è uno dei batteristi, o era uno, perché adesso ha una certa età. Sì. Ahimè, è mancato? Sì. No, sì, è mancato. No, beh, diciamo però che era una macchina praticamente. Jeff Beck a livello di batteristi non si è mai fatto mancare nulla, se dobbiamo essere proprio sinceri, sì, perché fin da quegli anni poi io ricordo un Simon Phillips, per poi arrivare ad esempio all'ultimo Vinnie Colaiuta, insomma, e di mezzo ce ne sono stati moltissimi straordinari, per cui ecco. Diciamo che lui, Jeff Beck. Ma lui si chiamava Jeff Beck per quello, poteva scegliere quello che voleva. Esatto. Assolutamente. Ma lo stile, che la musica, insomma, la qualità che lo ha sempre contraddistinto è sempre stata il frutto dell'unione delle forze di tutti i grandissimi musicisti con i quali lui ha collaborato. Per cui questa sperimentazione, che ha sempre messo in atto, ci ha sempre acchiappato tantissimo a noi Free Jam. Ecco qua. Allora, Free Jam in questa serata del 5 di marzo 2013 per promuovere il loro lavoro che si intitola What About the Funky, e quindi perché non cominciare ascoltando la prima traccia? Vuoi presentarla tu, Yari? Sì, allora presentiamo un brano ovviamente del nostro disco che si chiama Dancing in the Street. No. Dovevamo quale? Iniziare no, con un pezzo da disco. Ecco, ah, qua proprio del guardando. Disco, uno di quelli del disco. Va bene, sì, allora. Volevo suggerirtelo io. Catch the Monkey. Ah, va bene, allora Catch the Monkey. Allora si intitola Catch the Monkey with the Funky. Loro sono i Free Jam qui a Blu Radio Veneto. Yeah. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Catch the Monkey with the Funky, questo è il primo pezzo che abbiamo ascoltato dai Free Jam. What's About the Funky, questo è il titolo del loro lavoro. Sono qui con noi proprio a commentarlo insieme a noi e quindi a proporcelo anche poi nella versione acustica. Allora, questo Catch the Monkey è una canzone ambientata in uno zoo, se non sbaglio, con tanto sì, con tanto di canguri saltellanti, pappagalli, carote anche, sì, ci sono poi ci sono che non c'entra niente con gli animali. No, poi ancora... dovrebbero essere mangiate dai conigli, invece, invece sono mangiate dai pappagalli. E sì, Parrots and Carrots, c'era un album che diceva così, sì. Forse c'era Al Stewart. Bravo, in quel bravo, tempo, vero? C'era proprio quello. Benissimo. Ecco, ragazzi, quindi sì, a dai, tutti... Non c'è storia. Non c'è storia qua. Non far finta di non saperlo, sappiamo che l'hai copiato da lì, puoi dirlo, ammettilo. A tutti piace... A tutti piace sentire il funky e ciascuno lo interpreta alla propria maniera. Faccio riferimento appunto agli animali che sono presenti in questo pezzo. Ora il paroliere, ovvero chi ha scritto i testi, in questo caso alza la manina in maniera quasi molto tutti. Timida Davide, ecco qua, quasi tutti, nel senso che What About the Funky, il pezzo che dà il titolo al CD, invece è stata scritta da Yarin, non si sa come. Però è stata una concessione, gli hai fatto una concessione. È meglio non leggerlo il testo. Invece ti stupiremo, Yarin, perché abbiamo letto anche il testo. Benissimo, allora Davide, tornando a bomba su questi animali facenti parte di questa canzone, come è nato il tutto? Bah, allora, questo intanto è uno dei brani, dei primissimi brani scritti dai Free Jam, parliamo più o meno del 94-95. Quindi abbiamo circa 20 anni di onorato servizio. Sì, tra l'altro è anche uno dei brani a cui siamo più affezionati per vari motivi, anche perché è stato forse il primo vero e proprio brano funky, vero e proprio, puramente funky, insomma. Ma è nato da un'idea, nel senso che la rima Monkey Funky è stata... A volte i brani nascono proprio da una ispirazione creativa, da una sofferenza, no? Sì, cioè, sì, sì. È quella della scimmia, la rima. Esatto. La rima, sì. Funky, Monkey, e così è nato tutto. La storia dello zoo, la storia degli animali. L'idea è comunque appunto quella di una povera scimmia che è persa nei fumi del blues e viene salvata dal funky che gli fanno attorno tutti gli animali che festeggiano. Quindi un funky salvifico, sembra quasi di rivivere un po' i cartoni animati di Madagascar, quindi esattamente. Bellissimo. E allora, una parte importante comunque l'hanno avuta anche basso, chitarra, beh, la batteria sempre nel funky è sempre molto molto presente. Sì, la batteria adesso lo dico, poi non lo dirò mai più, la batteria è fondamentale, ovviamente nel genere, come anche il basso, nel senso che l'hai detto dal punto di vista del groove, ovviamente il grosso viene da lì, insomma, dalla sezione ritmica in generale, ma soprattutto diciamolo. E quindi i nostri ascoltatori si staranno chiedendo: ma come mai un gruppo funky che deve avere giusta potenza di batteria basso è venuto a suonare anche in forma acustica? Perché siamo i Free Jam. sentiamoli questo basso e batteria, ascoltiamoli bene. Allora ascoltiamo subito un primo pezzo in acustico, questo groove acustico, quindi con un bel pezzo che si intitola Dancing in the Street. Questi sono i Free Jam in live acustico qui a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live. Why should I care? The papers or watch the news, they're everywhere. When you're young, you don't give a damn. You just thrash them as daily spam. Growing up is total shit. Tell everybody that you meet, we should be dancing in the street. Violent coffee for breakfast and corruption cream. Time with massacre salad in a crimson stream. Have your evening pollution drink with whatever they want you to think. Believe what you're forced to eat. You should be jumping off your feet. We should be dancing in the street. They will never bring me down. They're never gonna bring me down. They will never bring me down. No. Should feel it in our feet. We should be dancing in the street. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, una bellissima canzone in versione acustica dei Free Jam. Ancora una buona serata ai nostri ascoltatori, con Flavio Bilato, Maurizio Calzavara ai microfoni per voi, assieme ai Free Jam, per ascoltarci What's About Funky, il loro ultimo lavoro, e con anche un ascolto molto acustico di quella che è la dimensione funky dei Free Jam. Allora, in questa canzone che descrive un po' la cronaca, no? La cronaca di tutti i giorni, quindi ci sono violenze, crudeltà, massacri, ancora litigi senza capo né coda, e quindi non basta scansarsi da queste difficoltà per vivere bene la situazione, allora non resta altro che ballare. E dove meglio che la strada per ballare? Quindi Dancing in the Street. Perlomeno l'abbiamo voluta leggere in questa maniera la canzone. È giusto, l'interpretazione, diciamo che tutto l'album ha questa specie di volontà di incoraggiare il superamento magari di certe difficoltà, che siano quotidiane, che siano episodi più pesanti, insomma, nella vita. Ma c'è in tutti i brani, se qualcuno vorrà, insomma, acquistare il nostro CD. Assolutamente. Ecco, sì. Ma poi dobbiamo sottolineare una cosa: qua c'è la prima contaminazione. Si parte dal funky, si sentiva subito. Poi sei entrato tu con il piano, che hai contaminato. Ho rovinato tutto. Hai contaminato l'assieme, e poi siamo ritornati al funky. Molto interessante la contaminazione. Hai giocato sui terreni diversi, hai allargato e allargato finché sei ritornato sulla base principale. Hai detto tutto tu. Molto interessante e molto intelligente, soprattutto, questa costruzione acustica di stasera. Ecco, se poi volete anche, carissimi ascoltatori, sentire un po' la differenza tra quella che è stata la canzone registrata in questa serata e valutarla assieme a quella dal CD, fate così. Allora, seguite il consiglio di Davide, che molto spassionatamente ha detto: entrate in possesso del nostro CD. Vediamo anche come, poi, Davide. E poi, naturalmente, confrontatelo con quello che è invece l'esperienza live acustico. Sicuramente è molto diversa quella che abbiamo sentito adesso. Resta la melodia, ma cambia molto anche il ritmo, nonostante col cajon si sia sentita molto la presenza di un ritmo denso e continuo. Sì, probabilmente, tra l'altro, una versione acustica così resta molto di più la dimensione blues, sì, esattamente, del brano. Anche nel suonare il piano deve avere una dimensione, certo, blues. Più che funk, del resto è vero che suonare il funky in acustico è sicuramente difficile. Ma noi ce la facciamo, no? Sì, ma sicuramente, certo, ci provate. Salutiamo anche i nostri amici che, oltre la frequenza tradizionale, quindi l'FM, stanno ascoltando anche Blu Radio Veneto tramite streaming audio, naturalmente andando sulla pagina riservata ai Free Jam e schiacciando diretta audio. In questo momento si può appunto ascoltare quello che stiamo trasmettendo. Poi, successivamente, con il passare dei giorni, questa scritta diretta audio si trasformerà in ascolta la registrazione, e quindi vi faremo accedere a quelli che sono i nostri archivi sonori, all'interno dei quali appunto terremo gelosamente custoditi anche i Free Jam in questa loro performance di questa sera, e anche scatteremo delle foto e saranno le stesse pubblicate anche con il link, sempre nella pagina riservata ai Free Jam. Questo non lo sapevamo, cioè ci vestivamo meglio. Così vestiti date il senso del rock. Esattamente. Proprio in questo momento siete vestiti assolutamente. Non vi potevo immaginare diversamente, in giacca e cravatta o in pantaloncini corti e maglietta con la scritta forza. Davide, volevo chiederti una cosa dal punto di vista della datazione. Quando è stata scritta questa? Ah, questa è forse... Guardo Yarin, perché c'eravamo tutti e due. Dimmi Yarin. Secondo è lo storico. Secondo me forse anche prima... Forse sì. Forse prima di Catch the Monkey. Direi prima di Catch the Monkey. Quindi sì, proprio all'inizio del progetto. Me siamo attorno al 91. E poi l'avete svuotata del discorso. All'inizio era funky, ma fino a un certo punto era più rockettaro, più blues, più di blues probabilmente. Sì. All'inizio era molto diversa. Poi l'avete svuotata, l'avete ricostruita a secondo come andava in quel momento. Non era country, no? Un po' Dassi fosse stato anche country. No, non era country. No, questa non era country. No, era un po' più... Sì, forse era un pochettino più funky, però sai, poi avevamo anche un'età diversa, quindi i brani vecchi presenti in questo disco, vecchi inteso... scritti in quell'epoca. Maggiorenni, i brani maggiorenni. Abbiamo cercato di riadattarli alla... questo periodo storico nostro, insomma, in certo. cui viviamo, con qualche modifica anche ai testi, quindi insomma abbiamo cercato di fare una cosa che ci rappresentasse perfettamente adesso. Certo. Scusate, non si sentiva. Qualcuno scriveva anche, con qualche paragone, che c'era un Lynyrd Skynyrd nella vostra, nel vostro sound. Anche se molto rockettaro, molto rock sudista, no? In questo caso, Lynyrd Skynyrd, però questo è il complesso più impronunciabile che io abbia mai detto. Perché sarebbe Lynyrd Skynyrd. Ecco qua, vedi che lo... Bravo, lui è bravo, eh. Vedi che lo bravo. Sa. No, e in effetti, per noi è assolutamente un complimento. Adesso chiamo in causa Enrico, che io non riesco a chiamare Enrico, perché chitarrista, si chiama Cippo, il nostro ecco chitarrista. Qua. Perché lui... conosce bene Lynyrd Skynyrd, ma non è solo, li conosciamo tutti quanti in realtà. Allora, sicuramente perché tu puoi apprezzare di più ancora il complimento in quanto guitar player. No, sicuramente sì, la cosa che mi ha un po' stupito effettivamente di questi due ragazzi qua, sì. di quando abbiamo cominciato, io sono l'ultimo arrivato della band, diciamo, quindi quando abbiamo cominciato è quello che vorrebbe uscire per primo. Sì, certo. E la cosa che effettivamente mi ha stupito è che non sapevo che avevamo in comune questa passione per il rock comunque del sud degli Stati Uniti, quindi Allman Brothers Band o altri gruppi come Lynyrd Skynyrd o altri. E quindi effettivamente non, da loro non me l'aspettavo, li facevo proprio puristi del funk, invece la contaminazione anche con queste band si sente, insomma. Quindi evviva il funky, perché rappresenta un po' la stranezza, se vogliamo dirla così, rispetto a quelli che sono i vostri percorsi musicali di base, che erano lontani dal funky prima, però si sono avvicinati e ci avete creduto. Perlomeno vogliamo leggerla così. Proprio così. Ma possiamo definire il funk una valvola di sfogo per tutte le vostre attinenze, le vostre facce musicali, che poi praticamente sono arrivate al funky, da rock sudista al rock al blues... al pop, possiamo dire anche al pop, c'è un po' di pop. Io conosco un brano funky degli Allman Brothers comunque. Ah, bene, questo è positivo, assolutamente. Benissimo, allora ci ascoltiamo ancora un pezzo del disco dei Free Jam. Questa volta mettiamo I Can't Live a Lie e poi torniamo qui in diretta a commentarlo insieme. Blue Time. Blue Time. Blue Time. To make you change your mind. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Un altro pezzo del disco dei Free Jam dal loro What's About Funky, col punto di domanda appunto finale, con questo pezzo I Can Live a Lie, che è una storia d'amore abbinata a una promessa mancata, se non ho capito male. Con, ti voto alle prossime elezioni. Sì, certo, eh? Certo, assolutamente. Dice, lui dice: non riesco a lasciare questo posto, non posso stare senza di te, lasciami questa sera. Ancora, così ti faccio magari cambiare idea. Sì, è un po'. Adesso non voglio usare termini, no. Però è un po' insomma, è un po' pretenziosa, no? Sì, sì. Ho usato l'unico termine che sono riuscito a trovare che non fosse insomma un termine carino, ecco, dai. Esatto. Però sì, il succo è quello. Prego Maurizio. Sì, scusa. Avevo prima domandato a Iari che batteria usi nel disco, perché c'è un sacco di sembra una batteria enorme. Lui mi dice: no, è una batteria normale. Adesso vai, vieni davanti al microfono, mi dici come l'hai suonata. Queste sonorità, queste tutte particolarità molto interessanti. No, beh, guarda, è una batteria normalissima. Intanto è una Ludwig, no? Bravo, sì, saranno molto felici i miei endorsement. È una Ludwig. Sì. C'è da dire che ho ricercato questa sonorità un po' vintage. Infatti è uno strumento, esatto, che richiama queste sonorità. Insomma, c'è una vena di modernità. C'è stata una vena di modernità nella ricerca della sonorità di tutto il disco. Però con questa, come dire, questa tendenza a mantenere una sonorità un po' vintage per richiamare un po' le origini del nostro genere e i nostri riferimenti anche musicali. Nello specifico la batteria è una Ludwig, semplicissima, con un set standard, con pochissimi effetti, ma oramai quando metti pochi effetti sembra quello l'effetto, no? Perché ho capito. Sì, perché in effetti prima anche il rullante si sentiva molto echeggiante. In realtà è proprio la sua nota giusta. Esatto, è la nota del tamburo. È un rullante squillante in questo, esatto, caso, molto, esatto, molto aperta la molla sotto, e quindi dà questa sensazione di grande aria. Esatto. Sì. Ma lui suonava batteria. No, scusate, solo due battiti. Vedi, sì. È molto molto esperto di questo. Poi ho deciso di mettere le bacchette al chiodo, non riesco più a levarle adesso. Okay. Bene, no, tanto per quindi abbiamo capito la batteria di Yarin com'è sistemata, e qua l'abbiamo sentita proprio anche nel disco, bella e martellante. Allora, dunque, direi che potremmo passare a un altro brano, perché sembra che ci sia tanto tempo davanti. In realtà lo mangiamo pian pianino, quindi ancora un qualcosa di acustico per i nostri ascoltatori. Questa volta cosa tocca? Death Light. È vero, merita anche una piccola premessa Death Light, perché adesso voi la suonate, la traccia numero 7 ufficialmente del disco, però c'è una piccola, come dire, forse premessa musicale nel disco, perché la traccia 6 è proprio quella che diciamo è un po' un cappello a quello che si vuole poi presentare nel brano numero 7, e appunto si intitola Toward Death Light. Allora noi ci ascoltiamo appunto Death Light e poi cerchiamo di legare insieme le due cose. Free Jam con noi con What About Funky, questa è Death Light. Solid rock here. The sky was so clear. Are those days were the good ones? Sailing the seas was easy for me. I always had a safe place to run. Then one day came the shadow, covered every sea and meadow, and I was lost. Trying to find a way through blindness and to leave the land of darkness at any cost. searching for a guiding light, just a light to guide me through the night. It's a light that you must see inside, clearing out the mist I felt inside, and those tears I couldn't hide. So came upon her, and I tried to keep you close and disguise my fear, trying on the world beside me, and I tried to give the surface I hardly hear. She's fine another here. To keep you close and disguise my fear. Sometimes life can just surprise you. So today I stay without you, and that's a fact. 'Cause I finally can see the light after seemingly eternal fights. Only Blue Time Live, sempre con Flavio e Maurizio. Questa volta veramente siamo stati fermi, fermissimi ad ascoltare questa canzone Death Light con i Free Jam, qui in diretta dei nostri studi di Blue Radio Veneto in via Cernaio 84 in Padova. Allora, Death Light, questa improvvisa oscurità della vita, dove tutto sembra andare apparentemente in maniera tranquilla, c'è bisogno comunque di una luce guida, e improvvisamente si sente la voce di un padre o di una madre che dice: figlio, presto troverai anche tu la tua luce, basta che la cerchi dentro. Perché la fortuna di entrare in possesso di questo CD, troverà anche all'interno il libricino con le canzoni scritte in inglese, perché sono state anche pensate in inglese, mi conferma Davide, e però con una rapida traduzione che possiamo fare anche noi che di inglese ne sappiamo poco, perché è molto semplice, però diciamo sono parole forti quelle che vengono dette in queste canzoni. Davide, sei sempre tu il complice di questi testi. Sì, il complice. Il colpevole. No, hai detto bene il complice. Sì. No, in realtà, sì, come sempre, i testi nascono da un'idea che nasce tra di noi, insomma. Dopodiché viene, io magari la sviluppo mettendo, diciamo, nero su bianco le idee, scegliendo le parole, insomma, il lavoro più magari da scribacchino. Ma questa avventura dell'oscurità e poi della luce è stata un'esperienza vissuta, da come viene cantata, vuol dire che proprio si è sentita, se non vista. Guarda, questo lo dico io perché Yarin non lo dice, ovviamente, ma è il brano che è stato, infatti chi comunque ha il CD può vedere che questo è un brano che è stato dedicato, o meglio, tutto il CD è stato dedicato a una persona che Yarin, e che anch'io ho conosciuto, che era il padre di Yarin, e una persona che ovviamente ha ispirato questo brano, e insomma probabilmente è il brano a cui in un certo senso siamo più legati, da un punto di vista intimo e individuale. Musicalmente, prima, quando nel primo pezzo acustico che hai cantato, tra l'altro benissimo, hai calcato le orme vocali di Donald Fagen. Qui, secondo me, non so se Flavio è d'accordo. È vero, no, perché ci stavo pensando, ho detto, ma questa voce, non posso dire che è Stevie Wonder, perché è un po' sotto, però adesso che Donald mi hai fatto Fagen, venire in mente Donald Fagen... E qua però, in questo pezzo qua, a me ricordava qualcosa del Steve Winwood da solista. Io ho fatto già su due complimenti, voi niente. Musicalmente sì, mi ricordava quella cosa là, questo pezzo, non il precedente, ma è questo qua, questo un giornalista ha scritto questi andamenti pop, tra virgolette, ricordava molto di Steve Winwood da solista, che ha fatto le cose meravigliose da solista, non tutte, però quando era da solista, cioè senza i Traffic, anche se molti dicevano i Traffic era lui, praticamente non importa, le cose da solista mi ricordava molto l'atteggiamento vocale tuo in questo pezzo, soprattutto almeno all'inizio, no, dopo no, dopo sei te nuovamente, però l'atteggiamento vocale aveva qualche addentellato con Steve Winwood da solista, questo è, ho pensato. Io ti ringrazio. Qua lo sentiamo anche in Valerie, Stevie Winwood, se vi ricordate. Uguale! È lui. Steve Winwood con Valerie era molto, molto tempo fa, quasi 30 anni fa. Anzi, esatto. Forse più di 30 anni. Anni 80, sicuramente. Anni 80, sicuramente. Bene, torniamo con la nostra base, molto, molto funky anche la nostra base, sempre Free Jam, sempre What's About the Funky, questa volta allora... facciamo prendere un po' di fiato agli strumenti musicali, presentando un altro pezzo da disco, in questo caso allora vedo tra le mie carte che c'è scritto che dobbiamo ascoltare anche Make It Better, allora cosa facciamo? Ascoltiamolo, benissimo. We'll be right back. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Free Jam, What About Funky, questo è il lavoro che sono venuti a presentarci questa sera, questi ragazzi che arrivano dalla provincia di Ferrara, come oserei, oserei dire alla, un po' alla romagnola, no? Quindi sì, sì. L'hai detto un po' in romagnolo. L'ho detto un po' in romagnolo, in realtà dovrei dirlo all'emiliana, quindi con l'esce un po' così, no? Ci vuole tutta l'esce. Sai quanti anni è che noi cerchiamo di liberarcene, tu la vuoi fare. E noi veneti, no? Abbiamo qualcos'altro che piace. Guardano tutti male i colleghi perché sì, dicono noi veramente non abbiamo mai cercato di liberarci. Però no, è il bello di tutti i dialetti, non sapere che si è simpatici parlando anche nel proprio dialetto. Allora, quindi arrivate da Occhiobello tutti? No. Ce n'è uno. Conosco solo quello di paese. Secondo me si capisce dal nome chi è. Munari, Yarin. Bello, quindi Occhio Bello. Che poi è provincia di Rovigo. Che poi è provincia di Rovigo, è vero. Esatto, sì, no. Che poi viene sempre abbinato a Ferrara, non so perché. In effetti, l'eterno dilemma. No, sono l'unico rodigino io, il resto della Combricola è di Ferrara. A proposito di questo, Iari, non che tu sia rodigino, a me interessa sapere una cosa molto importante nel discorso del MEI, il 55esimo posto come band nelle radio indipendenti italiane. Come è nato questo discorso? Sì, al momento dell'uscita del disco abbiamo fatto una forte promozione radiofonica su più di 1000 radio su tutto il territorio nazionale e c'era un sistema di feedback di queste radio, degli ascoltatori delle radio che facevano capo al MEI, che è insomma, l'associazione delle etichette indipendenti italiane. Certo. E ogni mese c'era una classifica riguardo appunto a questi feedback e agli indici di gradimento dei singoli. Noi eravamo in questa classifica con That Light e siamo arrivati ai 55esimi in questa classifica e la cosa interessante era che ci sono tuttora artisti big, grandi artisti. Mi ricordo il primo in quel mese lì, che era luglio mi pare 2012, se non ricordo male, vero Davide? Direi di sì. Il primo era Pino Daniele, poi c'era Riesa, ricordo i Modà, insomma tutti artisti che pur essendo molto famosi, escono nel circuito indipendente, non con etichette discografiche, non con major, ma con etichette, diciamo così, tra virgolette, indipendenti. E all'interno di questa classifica, appunto, c'eravamo noi al 55esimo posto, davanti anche a dei nomi grossi. Quotati, molto quotati. Sì, sì. E poi un'altra cosa che tu mi hai detto, ci sono delle buone possibilità che il disco veleggi verso il sollevante, il Giappone. Sì, beh, crociamo le dita, non diciamo troppo per scaramanzia, però sì, ci sono, insomma, c'è qualche porta aperta verso l'Oriente. Bene, una cosa molto positiva. Quindi un disco esterofilo in tutti i sensi, costruito anche per l'estero praticamente. Sì, devo dire, all'inizio l'abbiamo pensato principalmente per l'estero. Al di là della lingua, proprio per lo stile. Certo. Ma vorrei far raccontare due cose anche al nostro bassista Fusco che si stava distraendo. Che si stava un po' distraendo. Il nostro bassista, sì. Come ho lo strumento più... Più grande. Sì. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che nonostante la grande musica abbiamo uno studio grandemente piccolo. Sono incastrato fra e quindi chitarre, il basso, tastiera. Dunque il basso a vita è difficile perché c'ha anche l'asta un po' più lunga degli altri. Esatto, quindi, come mi muovo sì, colpisco certo. Qualcuno. Quindi, assolutamente, poi gli strumenti sono sacri. Allora cosa doveva dire? Sì, no, in realtà poi sì. Il disco, vi stavo dicendo, era nato per l'estero, poi abbiamo trovato grandissimi riscontri anche in Italia, devo dire, e oltre che è un riscontro notevole anche all'estero, in molte radio, eccetera, eccetera, per cui tutto ci sta dando, insomma, grande soddisfazione. Quindi dopo un po' di anni il meritato riscontro, insomma, praticamente, vero Iari? Ma sì. Non vediamo, è mai, non vediamo è mai... fra 10 anni. Vediamo fra 10 anni. Nel frattempo ricordiamo anche c'è un sito internet sul quale prendere ulteriori informazioni rispetto a quelle che si stanno già puntando i nostri ascoltatori. Il sito internet risponde a www.freejamband.com. ricordiamo, scritto all'inglese, quindi free jam band e così via .com. E quindi all'interno di questo sito troverete appunto tutte le informazioni del gruppo, anche i concerti e poi anche come entrare in possesso, ricordiamolo ancora, di questo bel disco denso di grande ritmo. Allora, a proposito di esterofilia, so che in questa serata volevate regalarci anche un qualcosa che non riguarda voi, ma una canzone che avete preso, fatto vostra, però con grande, come dire, stima e affetto nei confronti di un grande della musica internazionale. Sì, un vero e proprio grande. Sì. Questo è un brano di Stevie Wonder. Non siamo i primi a rifarla, nella nostra grande modestia, però abbiamo detto perché non farla anche noi. Quindi possiamo farla? Sì, quindi dai, non la presentiamo, tanto è talmente famosa che... Allora, facciamola senza presentarla. Benissimo. Siamo diretti. I Free Jam qui a Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Era il 1973 quando la cantava, la suonava Stevie Wonder dall'album Inner Vision. Poi molte sono state anche le cover di questo pezzo, come si ricordava prima. Forse la più importante è quella dei Red Hot Chili Peppers. Direi di sì, poi, a memoria mia. Poi ancora ce ne sono state molte altre. C'è una pagina intera, anche Ike and Tina Turner sì, hanno fatto questo pezzo, solo per citare alcuni grandi nomi. Free Jam, per citare un grande nome di questa sera, con questo pezzo, appunto, High Ground. E verso la fine abbiamo anche risentito con piacere Master Blaster, sempre sì, di Stevie Wonder. Fantastico. Un pupurri. Dobbiamo sottolineare una cosa, Flavio. Sì. Jani ha suonato anche con le pareti dello studio. Sì. Ricordiamo che la scorsa volta, quando i Free Jam sono stati ospiti in studio, c'era solo Davide e Jari, in esatto, questo caso, e non avevano nient'altro da suonare che non il tavolo. È vero. E ci sono delle foto che documentano dell'evento. Io in quella serata non c'ero, però me ne hanno parlato assolutamente bene. È stata una cosa bellissima. Bene che hanno detto adesso certo, dobbiamo suonare oltre che infatti che, sai cosa che mi sto tavolo, chiedendo sì, mi sto chiedendo quel telefono bianco chissà come suonerà. Sì, dopo te lo porto. Dopo proviamo. Sentiamo un attimo. Ecco qua, bene, abbiamo suonato e quindi levato ogni dubbio, è stonatissimo, bisogna accordarlo. Dobbiamo ecco, sottolineare anche l'assolo di Enrico. Sì, sì. Bellissimo che lui ha grazie, fatto questo brano. Grazie. C'è stato il diciamolo, ok da parte di Jari. Applausi. grazie ragazzi, grazie. Bravo Enrico. Grazie Roberto. Quindi scambio di complimenti reciproco. Si vede che la band ci tiene, sì, ci tiene. Beh, funky riunisce, sì, no, possiamo dire questo Jari. Riunisce in tutti il funky o no? Riunisce tutti il funky, al no, di là no, di... Esattamente. Ma guarda, è il funky. La bellezza del funky è che mantiene, diciamo, per certi versi la forma canzone, e contemporaneamente c'è una grande fetta dedicata all'improvvisazione. Sì, certo. E quindi è per questo che per noi è stato un punto importante di incontro tra la modernità e la tradizione, proprio per questi due motivi che ti ho appena detto. Bellissimo. Bene, allora ci ascoltiamo un altro pezzo da What About the Funky con i Free Jam, questa volta, ecco qua, la traccia che si intitola What About the Funky, proprio quella che è la... proprio lei, quella che dà il titolo all'album, la title track. Singing right now. What about the funky? Cool on down with us. What about singing? Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Si intitola What About Funky, questo pezzo che ci siamo ascoltati e che è un po' il manifesto della musica funky come vista dai Free Jam, e per l'occasione da ricordare che sia la canzone, quindi il testo, sia le musiche sono state scritte da Yarin, in questo caso da Yarin Munari, in un momento di grande trasporto, no? Diciamo così, dove ha messo un insieme di groove, poi un insieme di dance, di jump e di sing, e tutti insieme è venuto fuori il What's About Funky. Yarin. Sì, sì, sì, non farmi troppe domande sul testo, perché è un testo scemissimo questo, quindi... Difatti non l'abbiamo tradotto, però suona benissimo in inglese. No, sto scherzando, ovviamente, è un insieme di cose che dà comunque ritmo, cioè il testo è abbinato molto bene anche al ritmo che c'è stato in questa canzone. Poi naturalmente si sa, non solamente di testi come dire potenti e pieni, come dire, di significato si vive in questa, il funky ha bisogno anche di essere, di stemperare un po' le atmosfere, e quindi va bene anche ripetere, per dire, quello che diceva anche Albano con Romina Power, questo è il ballo del qua qua, no? Per cui molte volte non erano ecco. Mi permetto di dirti, sì, diceva solo Romina Power. Sì, Aldo diceva Albano non l'ha mai cantato, fortunatamente. Che, Fabio sei stato ti ha beccato funky. Subito scusa. Il non sono molto preparato. Meglio ecco, su questo tema. Comunque ecco, vi volevo chiedere questo. Adesso abbiamo sempre parlato di testi in inglese, no? E c'è mai stata la vostra idea di cantare anche in italiano? No, ti ho già dato il motivo, perché sì, questo, sì, sì. Secondo me La Donna Cannone è già tutto quello che si poteva scrivere di bello in italiano. Perfetto. No, non è vero. In realtà io vengo da una profonda incapacità di cantare e di scrivere in italiano. Perché è difficile. Perché è difficile. L'inglese è molto più facile da piazzare sulle melodie, insomma. Mm-hmm. Ha una struttura che ci rende tutto molto più semplice. Sì, però insomma, questo non vuol dire che non apprezziamo anche ciò che viene fatto bene in italiano, è chiaro. Certo. C'è qualcuno, io non ci riuscirei. C'è qualcuno che in Italia fa funk in italiano, però soprattutto chi che gioca sul rap poi si imbatte anche nel funk qualche volta. Sì, qualche volta. Il famoso gruppo. Esattamente. Gli amici. Salutiamo Benji. Ciao Benji. Questo è vero. Però giustamente tu hai detto perché canti solo in inglese. Perché non sono capace di fare altrimenti. E una cosa volevo chiederti, Yari, gli arrangiamenti hai fatto tutto te, produzione e arrangiamenti, è stato difficile? È stato complesso oppure è stato via dopo tanti anni di rimescolamenti? ci abbiamo messo pochissimo, un paio d'anni. No, beh, alcune cose sono venute molto in, molto in fretta. Altre ci abbiamo messo un po' di più. Devo dire che le cose più difficili sono state probabilmente riarrangiare i pezzi vecchi, perché ce li avevamo in testa in un certo modo, in una certa modo, maniera. Però non ci rappresentavano più, come ti dicevo, certo, prima, no? Per cui quello è stato un po' il vincolo più grande, quello di dare una nuova sonorità. Per il resto le cose nuove hanno preso una forma abbastanza veloce, diciamo. Per cui sì, poi la musica in realtà deve essere nella maggior parte dei casi istintiva, no? Le cose più immediate di solito sono quelle che arrivano anche un po' di più a trasmettere le emozioni che in quel momento vuoi. E il disco è un insieme di tutte queste cose, cioè dietro a degli argomenti anche molto, cambio un attimo il discorso per chiudere insomma il concetto che avevo anche iniziato prima, dietro, e di cui stava parlando anche Flavio prima, dietro a dei testi anche molto impegnati insomma eccetera, poi in realtà c'è sempre una vena ironica che si alterna nella scaletta del CD. CD nasce con Cats the Monkey, sì, with the Funky, e finisce con Yeah Yeah Believe It, che è un altro brano molto ironico, scherzoso, per cui dei momenti molto seri alternati a dei momenti insomma così gioiosi, tipici del funky, no? Certo, certo. Scusate, ecco qua, ecco, vedi. Sì. Ti eri addormentato anche tu? Sì, sì, sì. Non mi ero sto scherzando. No, avevo abbassato il microfono per lasciarlo, per lasciare tutta la conversazione a Yarin, che ha detto delle cose assolutamente interessanti e le ha dette col cuore. Agli occhiali finti, quelli con. Sì. Benissimo. Allora, non solamente di What About Funky sono venuti i Free Jam. Ma anche di qualche inedito. Ne vogliamo proporre uno in questa serata? Quindi diciamo, quando si parla di inedito si parla sempre di preludio, forse a qualcosa di nuovo. Ma intanto noi non andiamo più avanti nel discorso, prometto, però ci ascoltiamo ancora un pezzo. Questa volta non è all'interno del disco, proprio no, come si diceva prima, questo un inedito. È un inedito nel senso che non è neanche edito. Sì. Non solo che è nostro. Sì. Ma che non è proprio sul CD e chissà se lo sarà mai su un CD. Beh, è un brano che noi suoniamo da diversi anni in realtà. Sì. Che abbiamo stravolto per la ennesima volta per voi qui questa sera a Blu Radio Veneto. E quindi ci ascoltiamo The Eagle, i Free Jam con noi. Well, I travel so long through the valleys of lore, reaching for the sun and its hiding hole, and I've nearly chased the wind to the place where it's locked in. Those nights when everything seems immovable, Lord, I'm the eagle, I'm the eagle, flying free. Lord, I'm the eagle, I'm the eagle, flying free. Lord, I'm the I will be. When I'm slapped upon a cloud and said, please don't roar so loud, through the thunder so defiant in the sky, and I flew on to the place where the day meets the night. Lord, I'm the eagle, train, but still something makes me stand. In this land, there'll be my end. 'Cause I'm an eagle, I'm an eagle, flying free. Grande volo questo che abbiamo ascoltato, The Eagle si intitola la canzone, loro sono i Free Jam, questa aquila che vola libera, quanto è libera anche la vostra musica, quindi senza nessuna Ma scusa se ti interrompo, perché prego. Per l'interpretazione migliore di questo brano sì. ce la può dare il nostro bassista, perché ecco qua. È un testo un po' criptico, nel senso non è proprio di facile interpretazione. Lui è sì, forse quello che fra sì, di noi che lo può sì, spiegare sì, meglio. Decisamente, ecco. Sì, certo. Beh, questo testo ha una un significato molto profondo, che a noi piace lasciare libero di interpretare. Dunque un ascoltatore può praticamente dare il proprio significato a quest'aquila che vola libera. Perché spiegarla? È un poeta. Non perché non è un poeta. E poi noi non l'avevamo ascoltata prima, per cui adesso, beh, comunque... è molto west coastiana. Sì. Questo che hai detto te è decisamente west coastiana, assolutamente. Quindi si usava così da west coast. In ogni caso, è un pezzo molto dedicato a quelle atmosfere, fine anni 60, inizio anni 70. Cosa dici, Davide? Sono d'accordo. Forse anche già dal titolo ricorda un po' gli Eagles. Ricorda, ma era solo il titolo e basta. Solo il titolo. E basta. Benissimo, allora che dire, noi siamo quasi arrivati alla fine, poi naturalmente salutiamo anche Alberto Prisco, sì, il nostro direttore artistico, tramite il quale voi siete qui presenti, Free Jam, con che la ringraziamo. Blue Time Live. Allora, abbiamo ancora pochi minuti. Prima di lasciarci, vorremmo ricordare anche quelli che sono i vostri prossimi concerti qui in zona o da qualche parte. Non ci sono concerti. Comunque, all'interno del sito internet potrete trovare tra breve anche tutte quelle che sono le date che faranno i Free Jam. Che pioveranno. Benissimo, quindi facciamo un acquazzone di concerti. Ecco, un'ultima cosa, dovevo dirvelo in principio della trasmissione, ve lo chiedo adesso. Allora, la vostra copertina è senz'altro curiosa nella sua produzione, perché rappresenta un po' la bottega di un negozio di alimentari, no? Quello che si vede dietro, dopo il bancone, si vedono gli scaffali. Negli scaffali vengono messi i biscotti, le marmellate, i succhi di frutta, i canditi, le birre e tutto quello che c'è. La cosa molto particolare è che all'interno nella vostra copertina i biscotti non so perché si chiamano Munaris, e poi ancora le caramelle candite si chiamano Candy, poi ancora c'è un fusco per indicare la birra, e poi c'è anche un zullo, mi sembra di leggere. Come mai queste marche così? Sono... tradizionali, ecco, diciamo, che non si trovano sempre. Sono giro. Biologiche, per quello. Sono, ecco, quindi funky biologico. E abbiamo detto e citato quelli che sono i cognomi dei protagonisti della band. È veramente un bel disco, lasciatemelo dire. No? Flavio, adesso alla fine abbiamo detto certo, un bel disco. Dobbiamo ricordare, sì, chi vuole comprare materialmente il disco Iari, dove lo può trovare? Allora, attraverso il nostro sito c'è il link per comprare sia il disco digitale in versione digitale che quello in versione fisica. Certo. Oppure ai nostri concerti. Presto metteremo fuori le date, abbiamo un po' di date per l'estate che stiamo fissando. La prima è il 29 giugno a Occhiobello e poi ce ne saranno delle altre. Benissimo. Benissimo, quindi per finire una grande ricetta: 50% di groove, 30% di melody, 20% di horn, 100% di funky. Loro sono i Free Jam. E allora, vi ringraziamo di essere stati con noi, è stata una serata davvero splendida, perlomeno per quello che abbiamo vissuto io e Maurizio e che hanno vissuto i nostri ascoltatori. E vi ringraziamo ancora di essere tornati a trovarci questa volta con la vostra grande strumentazione. Quindi salutiamo Yarin, Davide, Roberto ed Enrico e noi ci vediamo presto, voglio dire, vi strappiamo un altro appuntamento. Quando volete. Benissimo, allora segniamo sull'agenda per quando vogliamo. Free Jam con l'appuntamento con What's About Funky e la prossima volta di più Funky. Ci lasciamo con un ultimo pezzo live, quindi noi adesso vi teniamo i microfoni aperti, però prima salutiamo. Cosa ascolteremo adesso, Yari? Adesso ascoltiamo This Time. Sì, che lasciatemi fare un po' un cappello a questo This Time, perché rappresenta un po' un grido di dolore, se vogliamo dirlo, no? Quindi c'è un grido di rivolta di una persona che non ci sta, tutti dicono che questa persona sia un disadattato, in realtà basta dedicargli un po' più di tempo, cercare di conoscerlo meglio e questa persona si trasforma e diventa uguale a noi. Esattamente, però questa volta sarà diversa. This Time. E cosa diceva la mamma? La mamma diceva: l'amore è come un piccolo seme di una quercia. Esatto. Ci lasciamo con queste grandi parole. Salutiamo ancora i Free Jam. Buon rientro a casa. E ancora What's About Funky. Questa è This Time. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande, caloroso ciao. Grazie ragazzi e grazie, ancora grazie, buona grazie musica. Buonasera a tutti. Buon Funky.